edizione. Ed è con la musica del pop, della star del pop africano Youssou N'Dour, che apriamo questa mattina prima edizione alle 6:14 minuti, perché non sarà il presidente del Senegal come aveva sperato, ma ministro sì. La notizia è di queste ore: Youssou N'Dour è diventato il nuovo titolare del Dicastero della Cultura e del Turismo senegalese. Il suo nome è ufficialmente nella lista dei 25 ministri che saranno guidati dal premier del suo paese, Abdoul Baye. Le 6:15 minuti, siamo pronti per le prime pagine dei giornali tra pochissimo. Prima edizione. E noi siamo prontissimi con le prime pagine dei quotidiani. Ancora buon giovedì 5 aprile da Anna Migliorati. Con cosa aprono oggi i giornali? Naturalmente con la riforma del lavoro, visto che a questo punto sembra fatta. C'è l'accordo coi partiti, Monti ha trasmesso il testo al Parlamento, vedremo in giornata il testo definitivo. A scalpitare sono le imprese a cui le ultime modifiche non piacciono. La CGIL ha detto che si pronuncerà in giornata, soddisfatti gli altri sindacati, staremo a vedere che succederà. Ma dicevamo, le prime pagine dei quotidiani. Allora, articolo 18, torna il reintegro, via libera di Monti, la Repubblica, Monti una riforma storica, imprese e banche però in rivolta, così cambia il mercato del lavoro, il Corriere della Sera, sui licenziamenti economici sarà possibile anche il reintegro, ridotto l'indennizzo, allentata la stretta sui contratti flessibili. Articolo 18, torna il reintegro, la Stampa, articolo 18, c'è il reintegro, il Messaggero, contratti, articolo 18, come cambia il lavoro, il Sole 24 Ore. Come vedete, grosso modo le aperture vanno al concreto di quel che c'è nel nuovo testo, con commenti naturalmente e analisi. La novità principale riguarda l'articolo 18, leggiamo dalla Repubblica. In questo caso torna il reintegro anche per i licenziamenti economici, occorrerà l'intervento di un giudice che li valuti non solo illegittimi ma anche insussistenti. Negli altri casi l'indennizzo sarà compreso tra le 12 e le 24 mensilità, quindi non più 27, meno l'indennizzo scende da 12 a 24, però ci potrà essere il reintegro anche per motivi economici. Molti dicevamo i commenti. Allora, sulla Repubblica scrive Massimo Giannini, il riformista della democrazia, la regia del Quirinale e il colpo di penna del prof. Francesco Bei spiega così i retroscena. Sul Sole 24 Ore c'è un commento di Alberto Orioli, la riforma rivista, il tabù scalfito, questo il titolo del commento. C'è anche una valutazione sul Sole 24 Ore delle misure, della valutazione dell'impatto delle nuove misure, un giudizio del Sole 24 Ore. Sull'apprendistato, aumenta l'efficienza per le imprese, la tutela dei lavoratori secondo il Sole 24 Ore, per il tempo determinato aumenta la tutela dei lavoratori ma diminuisce l'efficienza per le imprese. Per i licenziamenti, l'articolo 18, aumenta l'efficienza per le imprese e diminuisce invece per i lavoratori. E poi via via per le partite IVA, tra l'altro diminuisce l'efficienza per le imprese, aumenta per i lavoratori, e il processo del lavoro invece disco verde per lavoratori e imprese secondo il Sole 24 Ore. Li trovate così un po' riepilogato quella che è proprio il cambio di efficienza secondo le nuove regole valutate già da il Sole 24 Ore. Ma dicevamo, i commenti sono molti. Noi, prima degli altri commenti sulle pagine dei giornali, vogliamo farvi sentire allora i commenti di due protagonisti della trattativa sul fronte dei partiti. Soddisfazione per le novità introdotte sull'articolo 18 dal segretario del PD Bersani, ospite del TG3. Facciamo un po' di zapping TV così questa mattina, allora sentiamolo. Bisogna vedere le norme naturalmente, perché c'è sempre questa riserva. Ecco, il concetto che è emerso è il concetto che ci stava a cuore, e cioè prevedere comunque che qualsiasi tipo di licenziamento non possa essere semplicemente monetizzato, perché questo indebolisce in modo non accettabile, diciamo, anche i ruoli, il rapporto di forze, anche la dignità del lavoratore, e quindi il concetto c'è. Poi naturalmente la discussione parlamentare, vedendo le norme, potranno eventualmente esserci perfezionamenti, ma il concetto c'è. Io voglio credere che chiunque osserverà insomma le nuove norme dovrà registrare un cambiamento, certamente un passo avanti. Così dunque Bersani. Ha scelto invece il salotto buono di Bruno Vespa Alfano per commentare le novità della riforma. Noi abbiamo detto ok, occorre contrastare l'abuso della flessibilità che determina precariato, ma non bisogna buttare via lo strumento della flessibilità, perché altrimenti noi produciamo maggiore disoccupazione e più licenziamenti. Questa era la nostra preoccupazione e su questo abbiamo avuto soddisfazione su tre o quattro questioni fondamentali. Mi riferisco al sospetto di fraudolenza di ogni circostanza in cui c'è la partita IVA. Abbiamo migliorato la situazione per il contratto di apprendistato e abbiamo migliorato la situazione per quanto riguarda i contratti a termine. Cioè noi abbiamo temuto che da un lato si tra virgolette peggiorasse la situazione sull'articolo 18 e per altro verso si lasciassero alcune rigidità che erano state esplicitamente volute dalla CGIL. E così dunque i commenti ieri sera in TV su l'articolo 18. Torniamo ai quotidiani invece, cosa scrivono questa mattina? Lasciamo questo tema, ne parleremo ampiamente sicuramente ancora nei nostri giornali radio nel corso della mattinata. Le altre notizie in primo piano sui giornali di oggi, restando al Sole 24 Ore ancora l'altro tema economico che preoccupa, che sono i titoli di Stato spagnolo. La Spagna fa paura, scrive il Sole 24 Ore, lo spread BTP Bund vola a quota 357. La Spagna ora sotto i riflettori davvero a fare paura e ieri è tornato a volare anche il nostro spread, scrive il Sole 24 Ore. Ma l'altra notizia che troverete invece su tutte le pagine dei quotidiani è naturalmente la bufera all'interno della Lega, carrellata di titoli. Allora, taglio centrale della Repubblica, i figli di Bossi 200.000 euro, la segretaria racconta ai magistrati, decideva la moglie. Si allarga lo scandalo, tesoretto trovato nelle perquisizioni, Maroni dice chi ha tradito va cacciato. Corriere della Sera, anche qui taglio centrale, Porsche diplomi alla famiglia Bossi, bel sito nelle intercettazioni, soldi a figli e moglie del senatore, nuove rivelazioni e Napolitano chiede trasparenza alle forze politiche. Il commento, già vi segnalo sul Corriere della Sera, è del direttore Ferruccio De Bortoli, partiti al finanziamento pubblico guardandosi allo specchio, così il titolo del commento di Ferruccio De Bortoli. La Stampa, anche qui immagine del senatore a centro pagina, coi PM che dicono 500.000 euro ai Bossi e al sindacato, 200 dicevamo alla famiglia Bossi, 300 a Rosi Mauro. Scandalo Lega, parte la resa dei conti, Maroni via chi ha tradito. Il Messaggero, Lega nuove accuse sui fondi ai figli di Bossi 200.000 euro, la segretaria del Senatur collabora con i PM. Feste in discoteca e viaggi a Dubai, quanto ricostruito nelle carte sul Messaggero. Allora ecco cosa scrive la Padania questa mattina. L'assalto finale del sistema, l'intreccio di politica, magistratura e media, una bufera. Si parla ancora di complotto sulla Padania. Per mettere il bavaglio all'unica voce scomoda, il carroccio si stringe attorno al segretario Renzo e Riccardo Bossi, mai preso soldi dalla Lega. Il silenzio utile al sistema, non alla resistenza. Ancora, dicevamo, la linea del complotto questa mattina su la Padania. Altre segnalazioni delle notizie che trovate oggi sui quotidiani. Si parla di salute su La Repubblica e anche sul Corriere. La Repubblica, c'è un articolo firmato Umberto Veronesi che racconta che i medici americani hanno lanciato una nuova idea, si facciano meno esami. Veronesi scrive sulla Repubblica oggi, io non ci sto. E c'è sul Corriere della Sera invece la lettera di un malato sulle spese ospedaliere. È abbastanza scioccante, già ve lo dico. Il mio cancro costa, si chiede. Chiedo scusa a tutti. Caro direttore, compio 59 anni e da 4 anni combatto contro un tumore. Chiedo scusa per quanto costo alla comunità. È una lettera, come dicevo, davvero, davvero scioccante, quella che trovate oggi sul Corriere della Sera. Altre notizie, il messaggero ci racconta per quanto riguarda i film La Roma deserta di Woody Allen, dove per incanto il traffico sparisce, sta per arrivare nelle sale il film che racconta Roma secondo Woody Allen, qualche anteprima ce la racconta oggi il Messaggero, che ci racconta anche una curiosità tutta romana, i centurioni sfrattati dal Colosseo, sulla prima pagina del Messaggero. Oggi l'immagine. La Gazzetta dello Sport ancora invece parla il presidente della Fiat John Elkann, tifoso doc della Juventus. Juve, gruppo di leoni, stiamo andando bene, non è il momento di allentare la concentrazione, vogliamo tutto, scudetto e Coppa Italia. Così l'intervista oggi sulla Gazzetta dello Sport, che parla anche di Milan con Pato. Stagione finita, dramma e mistero, il brasiliano è al 14° infortunio della carriera. Lo staff medico del Milan, nessuna soluzione, e adesso il papero pretende di decidere da solo cure ed esercizi. Così sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. E restando in tema sportivi, abbiamo tempo per un'ultima segnalazione prima di lasciarvi come sempre la rassegna stampa più ampia con Alessandro Milan attorno alle 7:20. Allora, la terza vita, la inizia invece un altro nome del calcio italiano, ed è Marcello Lippi. Dopo Juventus e Nazionale, il ritorno di Lippi allenerà in Cina. Così scrive questa mattina il Corriere della Sera. Prima edizione. 3 anni fa, in queste ore, cominciava per L'Aquila una giornata che in qualche modo sarebbe stata l'ultima normale come fino ad allora si era conosciuta. Sono passati da allora 3 anni, le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E la mattina del 5 di aprile, vi saluta qui Daniele Biacchessi, Italia in controluce, prima edizione. Oggi ricordiamo il terremoto dell'Aquila avvenuto 3 anni fa con un reportage di Laura Bettini. Erano mesi che la terra tremava in Abruzzo, ma non era nulla in confronto a quello che accadde infine il 6 aprile di 3 anni fa, alle 3:32. Una scossa di magnitudo pari a 5,9 della scala Richter, con epicentro nella zona compresa tra le località di Colle di Roio, Genzano e Colle Fracido. Insomma, L'Aquila. Il terremoto lo sentì tutta l'Italia centrale. Provocò 308 vittime, 1600 feriti e anche più, oltre 10 miliardi di euro di danni stimati, migliaia di sfollati. 3 anni dopo, la città rimane immobile, titolano alcuni in questi giorni. Se è vero per la ricostruzione della città e dei suoi dintorni, non lo è però per la voglia degli aquilani di ridare vita alla loro città. Ha detto il sindaco Massimo Cialente che 24 mesi di stasi hanno tolto le aspettative ai cittadini. Forse, più che le aspettative, invece hanno tolto la fiducia nella capacità dello Stato di fare qualcosa. Mentre le aspettative ora vengono riposte in altre forze della società, interne ed esterne all'Aquila, legate al mondo dell'arte, della cultura, dell'architettura. In intellettuali del calibro di Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, ospite d'onore del convegno all'Aquila del 13 marzo scorso, intitolato, come un celebre libro di Settis, Paesaggio, Costituzione, Cemento. Grazie professor Montanari. La parola al professor Salvatore Settis. L'incontro cui partecipò Settis si svolse a poche centinaia di metri dalla zona rossa, ovvero il centro storico della città, che a 3 anni dal sisma è ancora inaccessibile. L'incontro cui parteciparono pochi giorni dopo, il 17 marzo, anche il premier Monti e i ministri Barca, Cancellieri e Profumo, era in luogo altrettanto poco accessibile, i laboratori nazionali del Gran Sasso di Assergi. Titolo: Abruzzo verso il 2030, sulle ali dell'Aquila. Promosso dall'OCSE, e cioè l'Organizzazione per la Cooperazione dello Sviluppo Economico, e dall'Università Olandese di Groningen, un forum da cui emerse una sonora bocciatura dell'attuale Organizzazione per la Ricostruzione, non che ci fossero molti dubbi in proposito però, e la promozione piuttosto di tutto ciò che è crescita integrata, sviluppo sostenibile, dibattito tra i cittadini. Anche qui nulla di nuovo, se non l'imprimatur internazionale di quanto predicano, da un mese dopo il terremoto, i giovani architetti aquilani riuniti nel collettivo 99, con tanti altri gruppi simili sorti in città. La possibilità di ricostruire una città migliore, una smart city si direbbe, una città intelligente grazie alle nuove tecnologie. Marco Morante è uno degli architetti del collettivo 99. Il danno più grave, più grande è in termini urbanistici. Cioè urbanisticamente si è ricollocato, rilocalizzato tutta una serie di funzioni cittadine senza una idea di città, che è tutto tranne che smart. Potremmo dire che è very stupid. In un incontro a marzo, il ministro per la coesione territoriale Barca promise il nuovo programma per la futura gestione della governance del terremoto e della ricostruzione. Il programma è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma L'Aquila può ancora attendere? Nel reportage di Laura Bettini sul terremoto dell'Aquila 3 anni dopo, Italia in controluce, ritorniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate, sono scaricabili in podcast su radio24.it e che potete trovarci e comunicare con noi alla mail controluce@radio24.it oppure attraverso Facebook, la pagina, il gruppo, Twitter e il nostro blog. Naturalmente la prossima notte ci sarà il ricordo del terremoto dell'Aquila alle 3.32, ve lo racconteremo domani mattina. Alle 6.37 minuti e 30 secondi, seconda parte allora di prima edizione, e parliamo di famiglie italiane, di consumi, di vacanze. Durante la fase più acuta della recessione, tra il 2008 e 2009, il reddito delle famiglie italiane è crollato del 4% a fronte di un PIL in calo del 6%, crollo che arriva al 7,5% pro capite rispetto alla primavera del 2008, prima della crisi. Sono dati che non abbiamo inventato noi, sono dati di Banca Italia diffusi ieri. E nello stesso periodo le dinamiche dei redditi delle famiglie francesi, tedesche, americane, svedesi e inglesi sono stati invece addirittura opposti. Nel periodo più duro della recessione i loro redditi sono addirittura cresciuti. Con questi numeri alla mano e molti altri cominciano le vacanze pasquali e io saluto questa mattina al presidente di Federconsumatori, Rosario Trefiletti. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Scuole chiuse, si parte per le vacanze, ma voi avete fatto i conti, partiranno in pochi quest'anno. Certamente, perché le previsioni di dover pagare l'IMU, le questioni relativamente a prezzi e tariffe che aumentano in misura incredibile, tipo luce, gas ed altro ancora, e poi sarebbe meglio non parlarne, ma ahimè dobbiamo parlarne, i carburanti, quando da Pasqua dell'anno scorso ad adesso c'è un costo in più per fare i pieni di benzina di 22 euro per pieno, insomma, siamo di fronte a una situazione che fa scappare la voglia di partire, ed ecco perché le partenze si attesteranno a circa un 11% della popolazione italiana, quindi ben al di sotto di quanti invece meriterebbero qualche giorno di sana vacanza. A pesare è soprattutto il costo del carburante, giusto? Sì, proprio così, perché il carburante ormai si sta avvicinando e io credo che ci arriverà se non si fanno operazioni diverse, ma non vedo a medio termine una variazione di questa natura. Se si attesterà a 2 euro la questione dei carburanti sta diventando ormai per molte famiglie insopportabile e molti lasciano la macchina a casa e non si muovono. Tra i vari conti che voi avete fatto c'è anche quello del rincaro consueto, ma quest'anno è particolarmente evidente, delle uova di Pasqua, ad esempio. Sì, noi abbiamo fatto come ogni anno l'indagine sugli aumenti di tutti i prezzi, non solamente delle uova di Pasqua, ma anche delle varie carni che si adoperano per i pranzi pasquali, come l'agnello, l'abbacchio e via dicendo. Ecco, gli aumenti, per la verità, rispetto agli andamenti degli anni scorsi sono non esageratamente alti, anche se dobbiamo dire, e la cosa ci irrita alquanto, non avrebbero dovuto esserci neanche questi aumenti del 3-5%, perché i consumi sono in netta contrazione, in netto calo, e quindi, come ogni buona regola dell'economia, se non ci fossero delle speculazioni in mezzo, direbbe che a una forte contrazione dei consumi dovrebbero corrispondere anche diminuzione dei prezzi, cosa che invece non accade. Quindi tutto, dalla carne all'uovo di Pasqua, alle colombe pasquali, vi sono variazioni di incremento dal 2 al 3 al 5%, cosa che non ci piace per nulla. E nel frattempo, comunque, questa è la situazione. Grazie questa mattina al presidente di Federconsumatori per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi e buongiorno a tutti. E la situazione la conosciamo tutti, ognuno naturalmente la propria, questo intanto il quadro generale. Veniamo all'altra notizia di oggi, di queste ore. Abbiamo detto che il Carroccio oggi andrà alla Conta, nel pomeriggio è convocato il Consiglio federale del partito con Maroni che chiede espulsioni dopo quello che sta emergendo dalle inchieste delle tre procure che hanno messo il naso nei conti del Carroccio. Allora, vi vogliamo far sentire il capogruppo della Lega Nord a Montecitorio, Giampaolo Dozzo, al microfono della nostra Elisabetta Fiorito. Presidente, che succederà adesso nella Lega Nord? Cosa succederà? Molto probabilmente sarà convocato un Consiglio federale, vedremo nel Consiglio federale cosa si discuterà e vedremo cosa, che soluzione prendere. Ma lei crede a queste accuse? Se credo alle accuse di cosa? Che questi soldi erano andati a foraggiare la famiglia Bossi. Ma io so che Umberto Bossi non è mai stato così assolutamente attaccato ai soldi, questo lo so per certo, e quindi non penso assolutamente che Umberto Bossi abbia avuto di questi problemi. Senta Presidente, però è un po' la fine del cerchio magico, questo sì, all'interno della Lega, si aprono nuovi scenari, magari nuovi personaggi. Ma guardi, noi siamo in una stagione di congressi e quindi siamo un partito democratico, quello che escerà fuori dai congressi si andrà avanti quel movimento. Ma lei vedrebbe bene una candidatura al leader di Roberto Maroni? Io penso che i militanti, i congressisti possono dire la loro, e quindi non so, in questo momento non so nemmeno se Roberto Maroni secondo lei si candida. Io direi di sì. Se lo sa lei, ma io non lo so. Così al microfono di Elisabetta Fiorito, vedremo che succederà oggi. Già vi anticipo che continueremo a parlarne nel corso della mattinata con due sindaci leghisti. A 24 mattino ci sarà Giampaolo Gobbo, sindaco di Treviso, al microfono di Alessandro Milan, e poi a 9 in punto con Oscar Giannino, Flavio Tosi, sindaco di Verona. Prima edizione. I conti per Pompei. Questa mattina l'appuntamento è fissato per mezzogiorno, ci sarà anche il Presidente del Consiglio Mario Monti per presentare il piano di rilancio del sito archeologico. 5 progetti finanziati con i soldi dell'Unione Europea e un protocollo di legalità. Allora Raffaella Calandra, un assaggio in anticipazione l'ha chiesto al Ministro per la Coesione Territoriale Fabrizio Barca. L'area archeologica di Pompei è un'area complessa, è uno dei più straordinari patrimoni dell'umanità, e quando questo patrimonio è messo a repentaglio da lavori che sono stati fatti in modo impreciso dagli effetti del tempo, è evidente che a quel punto il soprintendente ha bisogno di essere affiancato da un grande progetto. Si chiama così quello di Pompei, si chiama grande progetto nella terminologia comunitaria. Lo sa, sono 105 milioni di euro che vengono destinati alla messa in sicurezza di tutte le insule. Non siamo in un territorio sereno, come spiegai al commissario Hannes Hahn, non siamo certamente nei paraggi di Vienna, siamo in una delle zone a più alta criminalità organizzata dell'intero Europa, e quindi dobbiamo assicurarci, e lo facciamo attraverso l'alta competenza di un prefetto che sa collaborare alla scrittura dei bandi, che verificherà sulle pressioni che arriveranno, che ci saranno i tentativi, ovviamente 5 milioni di euro fanno appetito a certi ambienti. C'è tutto il mondo che sta guardando. C'è tutto il mondo che sta guardando, ha concluso il ministro. Insomma, dopo le polemiche sui crolli, si riparte dall'anno zero davvero oggi per Pompei. Io saluto Antonio Irlando, direttore Osservatorio Patrimonio Culturale, che da anni denuncia il degrado di Pompei. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei ha definito quella di oggi l'ultima occasione per Pompei. Perché? È l'ultima occasione, non fosse altro anche per situazioni economiche contingenti internazionali, anche perché non è la prima volta che l'Europa investe su Pompei. Questo è certamente un grande progetto con molti fondi, però Pompei già altre volte attraverso la Regione Campania ha finanziato degli interventi di conservazione su Pompei. Dai risultati, ahimè, spiegati come risultati positivi secondo gli obiettivi che ci si era proposti, cioè quelli di contribuire alla valorizzazione dell'area archeologica appunto attraverso una corretta conservazione prima, e poi ecco, non aumentando quello che è la domanda turistica. Nel concreto significa che molte delle case restaurate con i fondi europei non sono aperte al pubblico. Questa è una delle ammonizioni che ci è già venuta dall'Unione Europea. Noi auspichiamo che non si verifichi anche questa volta. E perché questa volta dovrebbe essere diverso allora? A parte il fatto che appunto arriva il ministro Monti, arriva il governo in pompa magna e quindi prende in mano la situazione. Infatti io pensavo e penso che questa è un'occasione importantissima, perché un governo che ha grande credibilità questa volta decide di metterci non solo la faccia del Premier, ma la faccia di molti dei suoi ministri autorevoli, dal ministro dei beni culturali a quello dell'istruzione, a quello degli interni. Quindi un'attenzione, come si usa dire in questi casi, ai massimi livelli, che dovrebbe far ben sperare. Anche per questa è l'ultima occasione, perché dopo non so, dovrebbe essere... Dove troveremo altri soldi, insomma. Certo. Allora, 5 progetti, per ora top secret, abbiamo ancora qualche istante, qualche anticipazione ce l'abbiamo? Ma ce l'abbiamo, sì. In pratica questi progetti che vengono spiegati stamattina non sono progetti, tra virgolette, originali, nel senso mai conosciuti oppure su case. Sono progetti già annunciati in una prima stesura del piano per Pompei che risale al mese di giugno 2011. Poi, ecco, progetto questo che va detto sempre per la somma totale di 105 milioni, ma che prevedeva interventi non solo su Pompei, dove erano previsti investimenti per 48 milioni di euro, ma interventi anche sull'area archeologica di Napoli, dei Campi Flegrei. Ora dovrebbe essere dirottato tutto su Pompei. Ora invece, da annunci ufficiali, e oggi ci aspettiamo di sapere nel concreto se questo, appunto, come è stato detto, sarà nei fatti, tutta la somma verrà spesa su Pompei. Ovviamente l'ultima occasione. Sì, l'ultima occasione. Quindi gli interventi sono interventi su alcune case, su alcune domus di Pompei. Però ecco, è bene forse che questa mattina ci fanno sapere nel complesso, ecco, il progetto, quali strategie concrete, perché sono stati fatti già delle anticipazioni e degli annunci. Ma sapere nel concreto qual è la strategia. Qual è la strada per Pompei? Sì, perché non bastano interventi straordinari come si è fatto. Grazie. E allora, il nostro tempo purtroppo, come sempre, è troppo poco, ma dobbiamo concludere qui. Ma insomma, il quadro ci pare abbastanza chiaro. Speriamo che oggi sia davvero un annuncio importante quello che arriverà a mezzogiorno. Grazie Antonio Orlando, direttore Osservatorio Patrimonio Culturale. Grazie a tutte voi. Buon giovedì. Tra poco ci risentiamo con GR24. Buona giornata da Anna Migliorati.